Quanto è bello con il suo faccino tondo, Ciccio Bello è un bambolotto. L'ho visto sempre attento con quel sorrisetto ed ho pensato è uno allegro. Ma quando mi ha sbattuto gli occhi l'ho compreso, Ciccio Bello è un bimbo vero. Come è evidente dalla sua corporazione è stato un grande muratore. E avete riflettuto bene quel testone che a me mette soggezione. Lo sospettavo, infatti mi hanno confermato, Ciccio Bello è laureato. Fa le audizioni, le sottrazioni, parla i processi e costruisce abitazioni. Costanzo Show che lo conosce per davvero, mi ha detto che una volta ha letto un libro intero. Ma soprattutto quella voce affascinante, Ciccio Bello è un gran cantante. Visto da lontano al centro sportivo, era vestito troppo figo. Anche cambiato la montatura dei capelli e sono veramente belli. E avete mai sentito le sue barzellette? Ciccio Bello è divertente. Gioca a pallone, raccoglie i fiori, mena la moglie ma rispetta i genitori. Quando si incazza non scherza mica, e la notizia è che comincia a far politica. Si sveglia il popolo e lo grida finalmente, Ciccio Bello presidente. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo. Noi balliamo, cantiamo, nei comizi festeggiamo.